Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Buongiorno, ci siamo sempre in diretta con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Anche oggi, anche il 23 luglio, in questo momento sono le 15:40, quindi siamo in diretta anche per questo sabato di luglio. Potete contattarci attraverso i vostri SMS al 349-238-6666, SMS, ma anche WhatsApp, il numero è lo stesso, 349-238-6666. Poi c'è il mio account di Twitter, @MartaCagnola, l'hashtag cancelletto ISDV. E intanto scopriamo anche i temi della prima ora che passeremo insieme. Diciamo che questa settimana ci prepariamo insieme alle vacanze. L'appuntamento con il gastronauta, parliamo di bere d'estate tra riti moderni e abitudini, diciamo, vintage. Parliamo di code, come evitarle, parliamo di auto, di tecnologie, ma prima iniziamo proprio a preparare le valigie. Ovviamente ci tiene compagnia il successo dell'estate. Atmosfera super estiva per la penultima puntata del sabato del villaggio per questa stagione. Stiamo facendo le valigie, ma che cosa dobbiamo mettere per forza in valigia? Beh, io lo chiedo sempre alla mia amica Giulia Crivelli. Allora diamo i consigli a tutti gli ascoltatori del sabato del villaggio. Ciao Giulia. Ciao, io in realtà partirei proprio dalla valigia, perché sono secondo me due novità interessanti. Una in realtà viene già da qualche stagione, però è stata perfezionata questa cosa e adesso secondo me è utilissima, ed è la valigia assicurata. E la si può prendere da Carpisa, tra l'altro sapete che insomma si spendono anche delle cifre assolutamente abbordabili, di tutte le misure possibili e immaginabili. Carpisa ha fatto, e lo trovate credo più capillare di Carpisa nelle nostre città, non so, quindi lo trovate dappertutto, semmai anche online naturalmente, e vi comprate la valigia, e grazie a un accordo che Carpisa ha fatto con Unipol, quella valigia è assicurata per una cifra non elevatissima, di circa 200 euro, però insomma se la perdete, che le compagnie aeree quasi mai rimborsano, se la perdete, se ve la rubano, quindi non necessariamente una cosa di cui è responsabile il vettore aereo, per esempio, e Unipol vi rimborsa. Quindi questo mi sembra un'iniziativa interessante. L'altra cosa a proposito di valigie, perché credo che sia un po' capitato a tutti, specie magari quando non in aeroporto dove quasi sempre c'è l'aria condizionata, ma magari in una stazione dove si è un po' storditi dal caldo in questo periodo, si può anche dimenticare la valigia. Accidenti. E allora qui ci corre in aiuto Piquadro, che è un altro insomma marchio, è naturalmente costa un pochino di più di Carpisa, ma ognuno poi fa il suo budget. E in qui c'è una cosa che si sono proprio inventati e anche hanno brevettato, che è un dispositivo che si chiama ConnQ, scritto C-O-N-N-Q-U, e in questo caso è un dispositivo, poi c'è una app, ci vorrebbe Enrico Pagliarini per darci tutti i dettagli tecnici, comunque è un'app che si può anche, tra l'altro è disponibile per gli smartwatch di Apple e tutti quelli di Samsung, e se voi vi allontanate più di un certo numero di metri dalla valigia, l'app vi avvisa, come dire guarda che mi hai dimenticata, vienimi a prendere prima che io sparisca. Beh, questo potrebbe essere ideale per me che ho sempre il terrore di perdermi i pezzi quando giro, perché magari ho una borsa, una valigia, una cosa. Questa mi piace molto. da non azionare quando spedisci la valigia, perché se la valigia va da sola, giustamente. Ottima idea. Quindi nel nostro elenco di novità da mettere in valigia abbiamo cominciato con la valigia, mi sembra assolutamente sensato. Poi insomma, che si vada al mare o che si vada in montagna in questa stagione vi sembrerà una banalità, vi dico, mettete tanti bikini. Ma perché? Perché c'è questa curiosità che quest'anno il bikini ha compiuto 70 anni, perché non li dimostra tutto sommato 70 anni il bikini, però fu un sarto francese, Louis Réard, a lanciare il due pezzi, ed era il 1946, all'epoca fu uno scandalo pazzesco, e però adesso i bikini tutte le stagioni qualcuno si inventa qualcosa. Secondo me un po' la cosa curiosa da qualche stagione a questa parte, e anche qui naturalmente potete scegliere voi il vostro budget, dalle grandi catene come Calzedonia, Golden Point, Tezenis, che hanno quelli che in gergo tecnico si chiamano entry price o primi prezzi, li chiamano anche, assolutamente abbordabili. E la cosa bella è che quasi sempre si possono comprare separatamente il pezzo sopra e il pezzo sotto. Quello che piace sotto a me, perché non mi piace mai nello stesso bikini, no, o mi piace il pezzo sopra o mi piace il pezzo sotto, non mi piacciono mai tutte e due allo stesso modo, e quello, quindi li comprimono in un modo, oh sì, che bello. E li puoi veramente abbinare, poi non so, magari prendi lo stesso pezzo però con due mutande diverse, una più alta, vanno molto queste tipo culotte, che poi tra l'altro, al di là del fatto che siano o no di moda, sono veramente cioè stanno bene quasi a tutte, perché contengono un po' tutti così la nostra pancetta, e comunque sì, insomma danno, perché insomma portare un vero, a parte un tanga, ma anche soltanto un vero triangolo, insomma, non, poi io consiglio a tutte di non fare la famosa prova costume, mette il costume e basta. Se ne frega. Però sicuramente la culotte, se qualcuna di noi qualche piccolo dubbio davanti allo specchio ce l'ha, aiuta. E sul bikini solo un'ultimissima curiosità, che è vero che è stato inventato così come lo conosciamo nel 1946, però è anche vero che addirittura ci sono dei mosaici in alcune ville siciliane, che sono mosaici del terzo secolo dopo Cristo, che insomma raffigurano delle donne che sembrano avere proprio dei bikini, soprattutto per fare sport. Non ci siamo inventati nulla, non ci siamo inventati nulla. Bello. Poi l'idea del bikini combinabile è una delle mie preferite. Ancora novità da valigia? Beh, sempre in tema di costumi, sì, questa è un po' una mia passione, e devo dire che qui c'è, come la settimana enigmistica e il settimanale che vanta innumerevoli tentativi di imitazione, Vilebrequin è quel marchio che è nato in Costa Azzurra, precisamente credo proprio a Saint-Tropez, negli anni 60, quando insomma c'era Brigitte Bardot a quel tempo, che spadroneggiava sulla Costa Azzurra, e questi costumi sono quelli che sono proprio nati, perché l'inventore li ha concepiti così, papà figlio, cioè li vedo spesso, il pantaloncino del papà, sì, e quello piccolino di tante misure naturalmente per il figlio. Adesso questo marchio, che appunto è molto presente in Francia ma c'è anche in tante altre città italiane, e anche qui se volete naturalmente tutto online, ha lanciato anche la linea mamma figlia. Ah beh, democratico, è stato per tantissimi anni soltanto per il sesso maschile, diciamo, adesso invece anche per la mamma e la bambina. E vi dicevo, innumerevoli tentativi di imitazione, perché non sono a buon mercato questi costumi, però di recente, tra l'altro, ho parlato con uno dei responsabili della ricerca, hanno veramente dei tessuti che negli anni si sono evoluti tantissimi, quindi sono quei famosi tessuti, al di là delle fantasie bellissime, ma che si asciugano molto in fretta, quindi anche adattissimi ai bambini. E però non costano poco, costano un pochino meno la loro imitazione più famosa, che si chiama MC2 Saint Barth, anche questi li trovate online. L'idea è sempre la stessa, e devo dire veramente che ci sono, ogni stagione ci sono 50 fantasie diverse, è molto divertente vedere papà e bambino insieme così. Mi piace l'alternativa high end, quella costosa e quella per, ma anche tutte le highest tasche, end, perché questa cosa del vestire i bambini come i genitori vale tantissimo, lo sperimento di continuo proprio nel segmento del lusso, tant'è che quasi tutti i marchi insomma del lusso hanno delle linee per bambino che vanno anche molto bene. Per darvi un'idea, 10% circa del fatturato complessivo di Dolce & Gabbana, che è più di 1 miliardo, viene dalla linea bambini. Ma ci sono nel mondo, soprattutto in Medio Oriente, negozi dedicati solo alle linee bambino. Ecco, però, per restare nel mondo del lusso, mi ha molto stupito durante l'ultima settimana della moda la presentazione di Keaton, che insomma è uno dei marchi di alta sartoria maschile più prestigiosi che abbiamo, naturalmente viene dalla zona di Napoli. Anche loro hanno fatto i costumi da papà e da bambino, e qui il prezzo insomma è un po' da mutuo bancario, però per dire che evidentemente piace questa cosa, perché anche se ci si mettono insomma, e naturalmente sono studiati nei minimi particolari questo tipo di marchi del lusso, vuol dire che insomma c'è un ritorno, ma probabilmente poi finché sono aziende italiane a noi fa piacere. Ma infatti, ma ci fa piacere, se poi anche sono i ricconi stranieri fa niente, basta che sono le aziende italiane che vadano bene. Hai tanti tanti spunti, che cosa? Sì, per passare insomma dal costume all'accessorio, secondo me quest'estate, vabbè, gli occhiali sono un altro di quei settori dove uno pensa, vabbè, ma cosa ci si può inventare nell'occhiale? A parte il fatto che, se ci fate caso, tutte le stagioni ci sono nuove collezioni di occhiali, quindi evidentemente anche lì la fantasia non ha limite, ma c'è tantissima ricerca anche sulle lenti, e qui un grande classico è gli occhiali Polaroid, che fanno parte, tra l'altro sono stati acquisiti da Safilo, che è il secondo player mondiale degli occhiali dopo Luxottica, e pensate che l'azienda Polaroid è stata fondata nel 1937, poi Safilo l'ha acquistata nel 2012, ha fatto un lavoro bellissimo sia sullo stile, sui materiali. Ci sono questi occhiali che sono completamente snodabili, quindi anche le astine si muovono a 360 gradi, adattissime ai bambini quindi, ma soprattutto adesso c'è disponibile una app per chi compra un modello, ma lo trovate veramente in qualsiasi negozio di ottica, e questa app, che si chiama Powered by Polaroid, vi dice esattamente quanto sono intensi i raggi UV quel giorno e quindi quanto è importante proteggere gli occhi. E la cosa che dico sempre, insomma, è che uno pensa, ma perché devo mettere gli occhiali ai bambini? Non parliamo in questo momento di occhiali da vista, che naturalmente non si può scegliere. Però gli occhiali da sole in realtà sono ancora più utili per i bambini, perché i loro occhi, come tutto il bambino, è più vulnerabile. Quindi da un recente sondaggio è venuto fuori che il 50% degli italiani non ritiene che gli occhiali da sole siano fondamentali, e invece lo sono. Pensa che io li metto anche perché sennò arriccio gli occhi e mi vengono le rughe. Ecco, poi un altro invece, sempre a proposito di budget, in questa catena Now, che tra l'altro è italianissima, la sede è vicino a Varese, lì vendono quegli occhiali che potete mettere sia quando siete all'interno che quando siete all'esterno, e le lenti si scuriscono pochissimo, perché credo che una cosa veramente fastidiosa, magari quando parli con qualcuno, è che perché c'è il sole, dà fastidio, questa persona si tiene gli occhiali da sole, tu non riesci a vederne gli occhi, non è bello. A me dà molto fastidio quando sono costretta a farlo io, perché magari io sopporto poco il sole e questi occhiali scuso in realtà sempre. Hanno una lente molto particolare, che quindi dall'esterno, da chi ti guarda, sembra una lente normale, ma tu in realtà hai una lente che ti protegge dal sole. Ottima idea. Ce n'è tra l'altro anche lì di tantissimi colori, quelli per vedere da vicino, per vedere da lontano, insomma sono standard, quindi sono una cosa un po', appunto, tra l'altro non costano tanto, però secondo me sono un'ottima idea per l'estate. Altre idee, Giulia, altre idee? Allora, io, la Marta lo sa, sono una maniaca di borse, per me le borse sono proprio una droga. No, a me non piacciono per niente. Meno da scarpe e più da borse. E no, sono democratica, scarpe e borse. E credo che quest'estate veramente la cosa che è anche più divertente, e anche qui non è proprio una novità di quest'estate, però sono un po' esplose queste borse con le nappine, ce n'è anche qua per tutte le tasche, quindi le trovate sia appunto in catene come Carpisa, ma anche altre, tutte il fast fashion le hanno, anche perché, diciamolo, poi loro le, diciamo così, che prendono un po' ispirazione dai marchi che se le sono veramente inventate, però lo fanno in modo più, naturalmente, a prezzi più contenuti. Quindi grandi ceste, grandi paglie con tutte le nappine che danno tanta allegria. Poi, se appunto andate invece in uno dei marchi più famosi, inutile anche fare nomi, fatevi un giro in via Monte Napoleone e lo vedrete con i vostri occhi, e lì poi dipende sempre dal budget, ma l'idea della borsa con le nappine, quindi leggera, tendenzialmente leggera, quest'anno l'hanno avuta un po' tutti. Ma Giulia, approfitto della tua presenza da super esperta di moda, ma perché le grandi case, io questa curiosità ce l'ho sempre, non si arrabbiano quando vedono i loro capi diciamolo, un po' copiati sì, da alcune catene di fast fashion, da Zara, tutte hanno dei modelli che sono chiaramente ispirati a qualcosa che contemporaneamente è a Via Monte Napoleone. Il trucco e la furbizia sta proprio lì, nel senso che tutti noi con buon senso diciamo, vabbè, ma quello è la brutta, bella, bruttina, bellina copia di qualcosa che abbiamo già visto in passerella, però non è mai esattamente lo stesso. Quindi se riesci a, per esempio, quando fanno i sequestri di finte scarpe Hogan o di finti piumini Moncler, lì c'è proprio scritto Moncler, cioè, allora puoi dire questo è un falso. Ma se il modello è solo simile, no. Adesso c'è la proposta di brevettare ogni singolo modello, con immaginate quanti costi per depositare ogni singolo modello, però anche in quel caso poi un giudice, e anche lì ci sono tre gradi di giudizio, un giudice può sempre dire sì è vero, assomiglia, però insomma, e poi naturalmente c'è la colpa del consumatore a quel punto, perché forse se vuoi the real thing, prenditi the real thing, oppure prendi qualcosa di completamente diverso. Esatto, lì devi decidere se vuoi una cosa che si ispira o dire, visto che non mi posso permettere quella originale, cambio completamente idea. Un ultimo suggerimento? Ne avevamo parlato anche due o tre settimane fa, e vabbè, le Spadrillas, che le trovate veramente, ed è divertentissimo perché ci sono quelle proprio col plafondo, cioè che vi rendono anche più alte. E poi io lo trovo molto divertente questa cosa dei bracciali, che anche qui tornano e ritornano, ma quest'estate veramente ne trovate tantissime anche qui da grandi catene tipo Accessorize, e sono leggerissimi, quindi nessun problema a tenerli anche in acqua, sono tutti fatti con piccoli accessori. Per esempio me ne sono comprato uno, sono anche maniaca di occhiali, con una piccola montatura attaccata. Poi naturalmente ci sono quelli di Cruciani, vabbè, 5 milioni di pezzi venduti. Non il nostro, non il nostro della radio, quello che fa i braccialetti. Marchio Cruciani, che partono da 5 euro, quelli sono tutti in macramè, e ce n'è veramente anche lì per tutti i gusti. Ma la cosa bella, appunto, sono più una cosa estiva secondo me, perché ci si può fare il bagno senza nessunissimo problema, e ognuno si può scegliere insomma quello che è più vicino alla sua personalità, spendendo in questo caso veramente poco. Allora, ci diamo appuntamento all'autunno e faremo un must have, le cose da avere in autunno. Volentierissimo. Grazie a Giulia Crivelli, a presto. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme dopo aver fatto un po' di valigia insieme. Saluto Lidia da Bergamo. Grazie Lidia per il tuo messaggio al 349-238-6666. Lidia ci ha scritto via WhatsApp: grazie per l'accogliente, mi piace come aggettivo, accogliente. E poi c'è qualcuno invece via SMS che si ricorda di English 24, che facevamo tanti anni fa con Giulia. Beh, ci siamo divertite molto per tanti tanti anni, ma le trasmissioni poi cambiano, vivono, muoiono, si fanno sempre tante cose nuove. Ma c'è un appuntamento che non può mancare mai, ed è quello del nostro gastronauta, che per questa volta io accolgo così. Banale la scelta di bollicine di Vasco Rossi, però parliamo di bere d'estate, bollicine o no? Abbiamo con noi il nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao, buona giornata. Allora Davide, un po' con le bollicine, un po' no, i riti sono tanti. Beh, guarda, bollicine mi richiami subito, diciamo, quello che quest'anno io vorrei lanciare come moda dell'estate. Una moda. Ah, quale? Quale? Che risale lontanissimo nel tempo. La gazzosa. Oh, la gazzosa, mi ricorda subito la mia infanzia. Infatti a molti ricorda la propria infanzia, ma voglio darti due note sulla gazzosa, perché a me piace andare a vedere anche un po' la storia. Tu pensa che la gazzosa è nata praticamente a Bologna, però sviluppata in Molise.

brasilena che è originaria della provincia di Catanzaro, viene venduta anche a Milano. Fabio, dimmi dove, perché la voglio provare. E invece Nicola ci consiglia due abbinamenti: latte menta con brancamenta e succo di pera con latte di suocera, che scopro essere un liquore che io non conoscevo. Davide, ci sentiamo il prossimo sabato, il prossimo appuntamento col gastronauta, l'ultimo appuntamento del sabato del villaggio in diretta, il prossimo sabato. Va bene, a presto. Ciao Davide, a presto. Ciao, ciao. Noi ci ritroviamo tra poco. In questo momento è entrato in studio Enrico Pagliarini, quindi tra poco parliamo di tecnologia. Il sabato del villaggio. Pensavo all'inno del weekend, all'inno delle vacanze, per questo è Coldplay che mi piacciono tantissimo. Uno degli inni del weekend o delle vacanze è sempre quello della partenza intelligente, del sistemare per bene la macchina, dell'avere cura per la propria auto. Io pensavo con tanto affetto a quelli che erano in fila, ho sentito di file nel nostro appuntamento con la viabilità, il prossimo è tra circa 10 minuti, e quindi insomma è giusto parlare anche di auto quando si parla così del prepararsi per le vacanze, cosa che stiamo facendo in questo sabato del villaggio. E quindi dal punto di vista tecnologico cosa dobbiamo sapere? Di cosa parliamo oggi? Ciao Enrico Pagliarini. Buongiorno, ciao, ciao a tutti. Io non so di cosa parliamo oggi, ho detto auto e Enrico mi ha detto ok. C'è problema. Allora, esatto. Noi così facciamo le scalette. Enrico, parliamo di auto? Sì, c'è problema. Allora, un paio di anni fa ho provato non sulle strade della California ma sulle strade del Nevada un'automobile. Capito, che chic. Un'automobile. Pagliarini, che è di Modena, va a provare le auto sulle strade del Nevada, che sì, andrebbe bene anche a Modena a provarle. Sì, però è casa loro anche quella. Ah, non c'è dubbio, sì, sì. Però quelle sono automobili che tipicamente vanno usate dove non ci sono code e file, quindi hanno meno bisogno di... Sì, un altro ambiente. Esattamente. Dunque, che cosa fa? Quella nello specifico era un Audi, ma adesso questa tecnologia esiste anche su altri modelli ed è già sul mercato, perché alcune tecnologie, soprattutto nel mondo delle automobili, arrivano sul mercato, ma non mi pare che le case automobilistiche siano così brave a comunicarlo. Abbiamo parlato altre volte di sistemi di assistenza alla guida. Questo è uno dei vari sistemi di assistenza alla guida. Che cosa fa questa automobile? Allora, oggi parliamo di code in questo spazio, perché è uno dei temi del fine settimana. Allora, se non si può evitare la coda perché si deve partire in quel momento, non si trovano strade alternative, quindi si è in coda, allora ci sono delle automobili che mantengono la distanza con il veicolo che ci precede. Se il veicolo che ci precede rallenta fino a fermarsi, si fermano automaticamente. Allora, per far questo l'auto deve avere il cambio automatico, se no dovrei io cambiare. Certo. Okay. La macchina, dipende dai modelli, comunque tipicamente questa tecnologia prevede che tu ti possa fermare per alcuni secondi e dopo pochi secondi la macchina riparte da sola. Se la coda è molto lenta, quindi io devo star fermo per minuti, la macchina si ferma e quando deve ripartire devo essere io a farla ripartire. Certo. Però soprattutto nei casi di incolonnamenti, rallentamenti del traffico, io non faccio praticamente nulla, è un sistema evoluto di cruise control. Certo. Quindi mantenimento della distanza della velocità con la distanza di sicurezza fino al punto che la macchina si ferma. L'ideale sarebbe non trovarle per nulla le code. Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Però visto c'è che c'è qualcosa che possiamo fare per non trovare per niente le code? Sicuramente sì, però devo anche dire, faccio una premessa, in alcuni tratti autostradali o stradali non è che ci sono non ci sono tantissime alternative. Magari l'alternativa è una strada poco trafficata con meno macchine, che però ci fa impiegare magari un'ora in più. Vabbè, uno dice evito la coda e mi guardo il paesaggio. Questo può essere un'alternativa, certamente. Però, diciamo, se uno deve arrivare poetica. A destinazione, non c'è dubbio. Anzi, soprattutto sui valichi di montagna, se ci sono code sull'autostrada, una buona alternativa sarebbe prendere le vecchie strade, che hanno dei valichi tra l'altro molto belli. Uno si ferma in un bar oppure anche a pranzo. A me capita quando vado al lago, perché io spesso vado sul lago di Como, se c'è traffico sulla superstrada io prendo la strada che costeggia il lago, lungo sicuramente lago, ci metto di più, ma vuoi mettere? Sì. No, allora, se uno vuole evitare la coda, beh, allora direi che la maggior parte dei navigatori, sia per smartphone ma anche ormai sui navigatori si chiamano stand alone, quelli proprio i prodotti che stanno, pezzo unico che mi installo. Poi magari facciamo anche un accenno al ritorno di moda di questi prodotti, per un motivo molto, molto semplice che poi dirò. Comunque tutti questi prodotti hanno la caratteristica di darci informazioni sul traffico e automaticamente ricavare informazioni di percorsi alternativi. Le informazioni che ci sono su questi navigatori sono piuttosto affidabili perché sono diffusi. C'è un legame stretto tra la diffusione e l'affidabilità delle informazioni. Perché? Perché le informazioni sul traffico ed eventualmente anche sulle code, questi navigatori, che sono possono essere installati con un'app sullo smartphone, le raccolgono da noi che siamo in giro. Quindi raccogliendo questo tipo di informazioni, questi sistemi, aggregando tanti dati, sanno qual è la velocità media del traffico, quindi quante persone ci sono lungo questo percorso. E oggi, dopo tanti anni che esistono questi sistemi sono così diffusi che ci sono migliaia di automobilisti che, anche senza saperlo... Ecco, questa è la domanda che ti volevo fare. Cioè, le raccolgono da noi perché gliele diamo scientemente le capiscono da soli? Gliele diamo perché quando installiamo l'applicazione diciamo accetto. E tra le cose che noi accettiamo. Sì, poi ci sono altri sistemi per raccogliere questo tipo di informazioni sul traffico, che sono sostanzialmente di due tipi. Allora, in maniera anonima, e questo effettivamente noi non lo sappiamo, ma non c'è nessun tipo di violazione della privacy, in maniera anonima e aggregata gli operatori di telefonia mobile fanno la stessa cosa che fanno queste applicazioni, cioè vedono dalle SIM che sono connesse ad esempio su un tratto autostradale, si possono capire i flussi di traffico ed eventualmente anche le code che ci sono. Non lo sapevo, cioè questi, i dati arrivano anche dalle compagnie telefoniche. C'è un mercato legale, non è un mercato illegale, ci sono, TomTom ad esempio ha un centro europeo che raccoglie tutti questi dati da vari operatori telefonici in giro per l'Europa, e questo tipo di dato è un ulteriore elemento che viene messo assieme ad altri dati che costruiscono appunto le mappe anche di traffico. Poi ci sono sulle principali autostrade sia i sistemi Tutor sia alcune spire che vengono annegate nell'asfalto che controllano i flussi del traffico. Anche questi dati, la società Autostrade ha una società che si occupa proprio di questo. Questi come dati dei sensori? Vengono, sono dei sensori che controllano il flusso del traffico. Ovviamente ogni automobile che passa ha un peso, schiaccia questo sensore, e è molto facile da capire, cioè se il sensore viene schiacciato a grande velocità vuol dire che il traffico è scorrevole, e comunque il sensore riesce anche a calcolare il numero di automobili che ci sono. Se o non viene colpito il sensore, o comunque viene colpito molto raramente, vuol dire che il traffico è lento, oppure che non ci sono veicoli, però dipende dalle condizioni. Tutti questi dati vengono aggregati e devo dire che oggi le informazioni sul traffico, che poi utilizzano anche quelli che danno le informazioni sul traffico, certo, a Radio 24, certo, nelle varie emittenti, devo dire che oggi sono piuttosto affidabili. Uno dei sistemi che è cresciuto di più negli ultimi anni è quello proprio tramite smartphone, con le applicazioni che noi installiamo per la navigazione, navigatori insomma classici che vengono installati sullo smartphone, danno informazioni alle società. Ecco, forse l'unica cosa che manca, però a questo punto, se non lo fa il mercato, dovrebbe esserci un provvedimento di legge, che però vedo molto difficile. Bisognerebbe, a beneficio della società, mettere tutte queste informazioni a fattor comune. Cioè le varie società dovrebbero metterle tutte assieme per rendere ancora più affidabile. Anche perché non solo la vita rimane, è più semplice per chiunque, certo, ma anche l'ambiente ne beneficia. Sì, sì, sì. Beh, questo ad esempio è uno dei grandi temi della cosiddetta Smart City, la costruzione anche di flussi di traffico intelligenti grazie a tutti questi dati che dovrebbero essere messi a fattor comune, perché se ogni società si tiene i propri dati, certo, per la società sono un fattore competitivo, perché io posso dire: io ho più dati, quindi i miei dati sono più, la mia previsione è più accurata. Esatto, esattamente. Ovviamente, se tutti mettessero a fattor comune questi dati, questo vantaggio competitivo sarebbe zero. Certo, perché tutti avrebbero gli stessi dati, però se non per i consumatori e per i cittadini. Esattamente. Enrico, hai detto che ritornano i navigatori, tu li hai definiti stand alone, sì, cioè allora, stiamo da soli. Sì, il classico navigatore, TomTom, diciamo che, ecco, si mette. Allora, ci sono alcuni vantaggi. Allora, intanto questi navigatori si sono evoluti e almeno in modelli più, quelli di fascia medio-alta, hanno tutto quello che ha lo smartphone. Cioè lo smartphone ha il grande vantaggio di essere sempre connesso, quindi di ricevere queste informazioni in tempo reale, di avere aggiornamenti di mappe in tempo reale, quasi non ce ne accorgiamo noi, perché se c'è un cambiamento sul navigatore automaticamente quello lo verifichiamo e lo vediamo. Uno dei grandi vantaggi è innanzitutto che se arriva una telefonata non abbiamo problemi di visione del navigatore. Vero, vero, vero. Perché sul navigatore, sullo smartphone o uno o l'altro... ci facciamo un sacco di cose. Allora, un altro grande vantaggio che hanno uno schermo, è vero che ultimamente ci sono smartphone con uno schermo molto molto grande, però normalmente questi navigatori sono cresciuti di dimensione e hanno uno schermo molto bello. Le cose si vedono molto meglio e soprattutto quando siamo in uno svincolo molto complicato, c'è uno svincolo qui verso Sesto San Giovanni a Milano, dove io mi sbaglio sempre. Ecco, avere un navigatore, nonostante utilizzi il navigatore, un caos svincolo completo, cioè una roba che poi fanno vedere le fotografie degli svincoli americani o cinesi. No, fate vedere questo e vedrete che possiamo battere il record del mondo. Ecco, più grande lo schermo, più cioè, devo dire che soprattutto chi guida per molte ore, vedo che ha riconquistato questo tipo di poi di devo utilizzo. Dire che io, che uso invece tanto il navigatore dello smartphone la mattina quando esco per decidere quale strada fare, perché io ne ho più di una e capisco, abitando fuori Milano, qual è quella più comoda. C'è anche un problema di batteria, perché le app mangiano un po' di batteria. Sì, sì, sì. Beh, poi questo uno potrebbe obiettare e dire: collega lo smartphone al caricatore in automobile, quindi questo lo puoi evitare in questo modo. Però sono molto più comodi e in alcuni casi anche un po' più precisi. Perché? Eh beh sì, perché comunque sia... il navigatore, che poi ha anche una sua, molti di questi, adesso io cito TomTom perché è il più diffuso, il più sì, anche perché ormai molti sviluppato. Lo chiamano TomTom come se sì, fosse il nome generico. Sì, esatto. Certo. No, devo anche dire che in questi casi, essendo un servizio che tu paghi, perché se compri il navigatore paghi il navigatore, se anche gli aggiornamenti l'app, allora ci sono molti modelli oramai che hanno l'aggiornamento a vita. Ah, e quindi non ti devi più preoccupare. Devo dire che in alcune situazioni sono più precisi. A questo proposito, diamo per un attimo la linea al traffico, perché sì, siccome di code ce n'è, sentiamo come sta andando la situazione e poi ti chiedo, non so se hai l'app da consigliare o che cosa ci vuoi dire negli ultimi minuti insieme, ma diamo gli aggiornamenti del traffico. Il sabato del villaggio. Screen doors and lamps, Mary's dress waves like a vision. She dances across the porch as the radio plays Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. inside, darling, you know just what I'm here for. Beh, io ho ancora negli occhi e nelle orecchie il concerto di San Siro di Bruce Springsteen, che è stato straordinario. Enrico, ho anche una domanda. Anche i vicini di casa, eh? Anche i vicini di San Siro hanno nelle orecchie. Ma che meraviglia! Enrico, c'è una domanda importante che è arrivata, sì? Al 349-238-6666 per te. Perché Enrico, un tuo omonimo, vuole sapere, ieri sera ovviamente c'è stato uno speciale per la sparatoria di Monaco di Baviera, e dice non è andato in onda 2020. 24. Non è andata in onda nell'orario normale, okay. Diciamo, alle 22 è andata in onda, è slittata di un'ora alle 23, sì. E esiste il podcast e oppure la replica di domani, la mini replica della domenica alle 13.30. Perfetto. Però c'è il podcast, io consiglio il sempre. Podcast, come dici tu, anche con qualcosa di più. Ah, Enrico, sì, sì. Un minuto, cosa abbiamo? Un'app? Allora, tre app, allora, fantastico. Diciamo, io preferisco Waze come navigatore. Waze è stata una startup israeliana che ha fatto una cosa fantastica, perché ha creato un navigatore molto ben fatto, è stata poi acquisita da Google, però viene mantenuta l'autonomia di Waze. È un'applicazione gratuita, in cambio noi forniamo dati, quei dati poi vengono utilizzati anche per altro tipo di informazioni, oltre che quelle per il traffico. Si scrive W-A-Z-E. Esattamente, Waze. E poi devo dire che nel mondo delle applicazioni a pagamento, ma se sono applicazioni che costano anche abbastanza poco, poche decine di euro, però per molte caratteristiche sono fatte molto molto bene, quindi se uno è un grande utilizzatore di applicazioni e ha bisogno di informazioni sul traffico e di navigazione, perché non ci sono solo informazioni sul traffico, beh, consiglierei TomTom e tutte le applicazioni per smartphone di TomTom, certo. Oppure Sigic, scritto proprio così, che è un'applicazione di navigazione fatta molto bene. E quindi direi che queste sono la mia classifica, le preferite. Poi ribadisco, se uno sta molte ore in automobile e ha molto bisogno di informazioni di navigazione o informazioni sul traffico, io riconsidererei il classico navigatore da piazzarsi nella e visto che facciamo la spesa, comprate quello che costa di più. È vero, che sono tutto, d'accordo. Chi più spende, eccetera, eccetera, eccetera. Esatto, Enrico, esatto. Io ti lascio andare perché ciao. Sveliamo agli ascoltatori che lo riascolterete tra poco, perché va di là a chiudere il giornale radio delle 16. Abbiamo già preparato quasi già tutto, preparato, ma ci mettiamo però le ultime, l'ultimo ok nel giornale radio delle 16. Ciao, a tra ciao. Poco, Enrico. Noi invece continuiamo a parlare di code, perché c'è stato un servizio che mi ha molto divertito su Focus di agosto, il mensile Focus, uno studio scientifico sulle code, su come evitare le code. Ne abbiamo parlato con Gianluca Ranzini, vice caporedattore di Focus. Sì, abbiamo pensato di parlare un po' di code perché è un argomento abbastanza estivo, insomma, tutti quanti ci ritroviamo prima o poi imbottigliati nel traffico d'estate. Abbiamo fatto qualche ricerca e abbiamo scoperto alcune cose divertenti, e cioè la cattiva notizia è che in alcuni casi le code si formano per forza, in maniera naturale, cioè non c'è niente da fare. Non si possono evitare. Quando le macchine in una certa strada superano un numero critico, diciamo che circa di 2000 veicoli all'ora per corsia, si forma la coda. Quindi quello purtroppo non ci possiamo fare niente. Però c'è qualche piccolo trucchetto che può servire a cercare di mitigare gli effetti, diciamo, del grande traffico. E sono delle cose che vanno un po' contro la natura dell'automobilista medio, diciamo. Soprattutto no? Maschio. Soprattutto maschio, effettivamente. Cioè, per esempio, cercare di andare ad andatura estremamente costante, no? Perché le code si propagano all'indietro, no? Come un effetto a catena. Uno comincia a frenare, quello dietro vede che quello davanti frena perché ci sono gli stop accesi. Frena anche lui, pian pianino questa onda di rallentamento, come la chiamano i fisici, si propaga all'indietro e rallenta tutti quanti. Se invece si va tutti alla velocità più costante possibile, anche bassa, questo effetto si smorza, perché quando io vedo che quello davanti rallenta ma sono abbastanza distante, non devo frenare immediatamente, per esempio. Quindi bisogna anche mantenere una distanza ampia da quello che ci precede, non andargli subito dietro incollato cercando di guadagnare qualche metro, perché non serve a niente. Questa prima cosa. Seconda cosa, cercare di far immettere se c'è una corsia di immissione laterale e non cercare di passare a tutti i costi per fregare il vicino, ma anzi favorire l'immissione dei veicoli da un lato, perché rimane più costante il flusso del traffico. Quindi non è solo gentilezza e cortesia, ma aiuta a evitare le code? Esatto, migliora un po' la situazione. In ogni caso, in generale, quando si vede che la situazione del traffico è a rischio ingorgo, bisogna cercare comunque di rallentare, appunto stare abbastanza distanti dall'auto che ci precede e andare a velocità uniforme, insomma. Ho letto una cosa molto interessante. Io pensavo che il divieto di circolazione ai camion nei giorni festivi fosse solo per diminuire il numero di veicoli, ma toglie anche, cioè diminuisce la forbice tra i veicoli lenti e quelli veloci, e quindi anche questo aiuta a diminuire le code. Esatto, perché diciamo ci sono i trucchetti come quelli che stavamo accennando prima che riguardano il singolo automobilista, però ci sono anche diciamo le istituzioni che cercano di mettere in atto delle cose che possano cercare di evitare le code. Una è appunto il divieto di circolazione dei camion la domenica. I camion comunque non possono superare una certa velocità che è inferiore a quella delle auto, e se non sono presenti sulla strada c'è più uniformità appunto tra le auto stesse, che più o meno vanno tutte alla stessa velocità, entro i limiti si spera naturalmente, però i limiti dei camion sono più bassi, quindi si diminuisce la forbice tra i veicoli più lenti e quelli più veloci. Mi ha molto incuriosito il fatto appunto che molti trucchetti vanno in senso contrario rispetto a quello che ci immaginiamo noi in realtà. Quindi gli studi scientifici ci aiutano a capire che spesso sbagliamo in buona fede. È vero, effettivamente, no? Dal punto di vista della scienza le macchine in coda sono trattate come l'acqua che scorre in un tubo. Quindi bisogna immaginarci in questo tubo ideale di vetture che scorre dentro l'autostrada. E un'altra cosa, per esempio, che probabilmente va un po' contro la natura dell'automobilista è non cercare a tutti i costi, quando il traffico riparte, di riguadagnare tutto i metri perduti, diciamo, no? Quindi richiudere immediatamente il buco. Anche questo non favorisce, come dicevamo prima, è meglio mantenere una certa distanza da chi ci precede e andare a velocità costante, quindi non continuare a fare accelerazioni e frenate brusche, insomma, perché come dicevamo l'onda di rallentamento se no si propaga all'indietro più facilmente. Per gli altri trucchetti degli automobilisti ma anche dei gestori delle strade, non svegliamo tutto perché altrimenti roviniamo la sorpresa ai lettori di Focus, il numero di agosto. Grazie al vice caporedattore Gianluca Ranzini. Grazie Gianluca. Grazie a voi, alla prossima volta, arrivederci. E quindi questi erano un po' di trucchetti per evitare le code, alcune cose che possiamo fare noi, alcune cose che fanno i gestori delle varie reti, e io insomma invece penso con affetto a tutti coloro che sono in coda, perché ne ho viste tante questa mattina di code arrivando a Radio 24. Tra poco appunto il giornale radio delle 16, dico appunto perché abbiamo appena salutato Enrico Pagliarini che andava a dare gli ultimi tocchi al giornale radio. Di cosa parleremo invece nella seconda ora del sabato del villaggio? Avremo con noi un ospite straordinario, uno dei veri re della musica dell'estate. Tra pochissimo scoprirete chi è. Parleremo dei libri da mettere in valigia, di tutti gli eventi dell'estate e della settimana, e poi parleremo anche di una straordinaria mostra dedicata a un grande personaggio che ci manca moltissimo. Tutto questo tra poco, la seconda ora del sabato del villaggio, ora il giornale radio. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme dopo il giornale radio delle 16 con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è come sempre anche in questa seconda ora il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. I numeri per mettervi in contatto con noi sono il 349-238-6666, va bene per i WhatsApp, va bene per gli SMS, e anche il mio account di Twitter @MartaCagnola. L'hashtag è cancelletto ISDV, come le iniziali del sabato del villaggio. Saremo insieme anche per una terza ora, come sempre, dalle 17 alle 18, il consueto appuntamento con RadioTube con Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. I temi della seconda ora: stiamo preparando insieme le vacanze, le valigie, i libri da mettere in valigia con la nostra Alessandra Tedesco, e poi torna al Sabato del Villaggio il nostro Manuel Giancale per parlarci di eventi estivi. Andremo anche a Roma per la prima mostra dedicata a Lucio Dalla. Ma prima sempre la musica, con i ritmi estivi per eccellenza tra presente, passato e futuro. Messo romagnol, tet chi si te fiol. Messo romagnol, tet chi si te fiol. Messo romagnol, tet chi si te fiol. Messo romagnol, tet chi si te fiol. Romagnol, tet chi si te fiol, messo romagnol, tet chi si te fiol. Sono figlio della mia terra, vengo dall'Africa, fratello della fame e mia sorella è la povertà. Allora, questo è il nuovo singolo. Io purtroppo non dirò bene il titolo. A chi si te fiol, tu di chi sei il figlio? Io presento subito l'autore di questa canzone, che è uno dei due ospiti di questo blocco del Sabato del Villaggio. Io chiamo subito Mirko Casadei. Ciao Mirko. Ciao, ciao, ma guarda che sei stata bravissima, l'ho detto... l'hai pronunciato perfettamente. Sto imparando, dai. No, vabbè, che significa di chi sei, guarda, figlio? Ha un significato, è un modo di dire dei nostri nonni romagnoli, ma poi si usa in diverse regioni, vuol dire di chi sei figlio, e tu di chi sei il figlio, da dove vieni, che provenienza hai, che famiglia sei, cosa fai qui, insomma con anche un po' di diffidenza questa frase, è un modo di dire appunto che dicevano i nostri nonni. Io l'ho girato, mi sono immaginato l'incontro tra un profugo magari o insomma un esule che viene nella nostra terra, arriva in un paesino dell'entroterra romagnolo dove ci sono ancora gli anziani al bar, così entrando dal barbiere e trova l'anziano, si trova davanti a questi immigrati e gli dice: ma tu di chi sei il figlio? Poi alla fine però finisce con un grande abbraccio, un abbraccio di amicizia, un abbraccio di accoglienza. Quindi è il senso di questa canzone, è un punto di vista diverso, un po' più avanzato secondo me, e verso questi profughi, questi immigrati che lasciano un mondo che non esiste più, pieno di guerre e di barbarie, alla ricerca di un mondo nuovo. Quindi Mirko, direi che questo è anche un po' il senso della Romagna, dell'accoglienza, sì, romagnola, sì. Che cosa sta succedendo questo fine settimana in Romagna, Mirko? Ma sta succedendo di tutto, perché veramente cose inenarrabili, perché c'è la notte del Liscio, un sogno che si realizza grazie anche alla regione Emilia Romagna, una grande festa per festeggiare questa musica popolare che è a tutti gli effetti il nostro ballo italiano, perché il Liscio poi in realtà nasce in Romagna, ma è il ballo italiano, e è anche una nobilitazione, una proiezione nel futuro di questa musica. Pensa che ci sono stati personaggi del calibro di Frank I. Energy, ad esempio, che ha rappato su un valzer romagnolo con tanto di fisarmonica, clarinetto e sax, e nella versione di Quelli che ben pensano a valzer, quindi per dire, per farti un esempio di quello che sta succedendo qua. E devo dire con un grande successo di pubblico, un grande gradimento, abbiamo fatto incontrare la tradizione, il Liscio più così radicale, a personaggi che vengono dal mondo della musica indipendente, che vengono da altri settori, per portare la loro magia, la loro, ad esempio Massimo Bubula, un autore fantastico, scritto Il Cielo d'Irlanda, Don Raffaè, grandi successi di De André. Anche lui ha nobilitato la nostra musica, l'ha reso più un Liscio d'autore, ad esempio. E poi questa sera a Rimini c'è il grande finale, e l'orchestra Casadei, io in particolare, duetterò con uno dei miei miti che io adoro, il grande Goran Bregovic. Secondo me che... sarà un gran concerto questa sera. Io guarda, vengo dalle prove, ho ancora l'emozione addosso, ho ancora i peli dritti, perché sentire Goran Bregovic che interpreta una mia canzone che si chiama Che Riviera, che parla di vacanza, parla di divertimento, oppure anche Romagna Mia o Ciao Mare, devo dire che è una grande emozione. Questa commissione di suoni, di sonorità, ha creato qualcosa di vero, qualcosa di veramente profondo, veramente bello. Quindi sarà sicuramente una festa incredibile questa sera a Rimini. Però Mirko, secondo me, uno dei più attesi, ma anzi no, devo dirlo così, il più atteso è il gran cerimoniere. Lui è il re del liscio. Lui è il re del liscio. Io sono molto emozionata perché ce l'abbiamo al telefono con noi. Buongiorno a Raul Casadei. Raul, ciao, che Marta, meraviglia! Ciao. Il re. Ciao, il re, lui in persona. Grazie, ma io anch'io sono emozionato a sapere che il grande Goran fa ciao mare, sai. Ragazzi, Goran Bregovic che fa ciao mare. Insomma, non è mica poco, sai. Io sono un provinciale, io sono un po' ruspante e sentire che viene Rimini già è una capitale del turismo. Trovarci assieme dei personaggi di quello livello lì e fare le mie canzoni che sono nate un po' nelle aie, diciamo, nel ghetto, così. Io sono molto felice di questo ed è un grande orgoglio. Sai che io sono 35 anni che ho abbandonato il palco. Però adesso si torna, Raul, si torna. Sono già tornato ieri sera a Cervia, l'altra sera a Cervia ho raccolto tutti i 10 musicisti di allora, degli anni 70, Rita Coscialunghe, sì, Luana Babini. Rita Coscialunghe che nel frattempo è diventata nonna. Sì, ma tutti, io sono diventato bisnonno, figurati. Però ti dico la verità, adesso tu non mi vedi, ma dicono tutti che sono un ragazzino. Non ho dubbi, lo sento che lo stanno dicendo sotto. Ma io non mi voglio arrendere perché la vita è troppo bella e poi io me la goda, faccio l'orto, coltivo i radici, i pomodori, le patate, ho le galline, vado a pesca, faccio di tutto, capisci, nuoto, quindi non voglio mollare. Quindi ma ci mancherebbe altro. A Cervia ci sono trovato con i miei ragazzi di allora che non vedevo poi da 15-20 anni, ognuno, uno pescato che giocava le carte in un bar, l'altro legava i pomodori, l'altro potava l'olivo e li obbligati a venire con sorriso naturalmente, ho detto siete obbligati a venire e mi hanno risposto tutti, signor sì, signore, e a Cervia è stato un miracolo. Come è stato arrivati... per te salire sul palco? Che emozione è stata? È stato emozionatissimo perché noi ci hanno caricato su una limousine. Pensa che spettacolo, abbiamo il filmato, prima o poi lo vedrai perché questo è indimenticabile. Siamo arrivati sotto il palco, siamo saliti sulla pedana attraverso la gente che ci adorava, soprattutto Rita Coscialunghe e Renzo il Rosso, che è un musicista, che è quello che ha lanciato tu sei la mia simpatia, sai. La gente è impazzita. Poi sopra io ho diretto l'orchestra, un'orchestra di 15-20 musicisti e abbiamo fatto ciao mare, simpatia, la mazurka di periferia. Insomma, le sappiamo tutte. Raul, l'hai chiamato Casadei Social Club come il Buena Vista Social Club, con un po' di autoironia. Sì, ma no, comunque noi siamo una famiglia. Tu pensi che l'orchestra è nata nel 1928, fondata da mio zio secondo Casadei. Che lui ha scritto Romagna Mia. Poi io ho lanciato Romagna Mia negli anni 70 assieme a Romagna Sangiovese. Poi adesso con mio figlio a Romagna Capitale e poi messa un romagnolo, chi siete fiol, entra a casa mia. Quindi mio figlio apre le braccia all'emigrante, è un abbraccio. Noi non siamo razzisti, stai in Romagna, noi siamo entusiasti, però vogliamo della gente sana, naturalmente. E ci guardiamo bene, però siamo, abbiamo un cuore grande, grande, grande. Che meraviglia. Io sono contenta di avere sentito Raul Casadei, il re, Mirko Casadei, che ormai non si può più dire principe perché è re anche lui. Io sono molto invidiosa di tutti coloro che potranno essere questa sera a Rimini perché il liscio è bello, è sano, è estate. Io ho una vita che voglio imparare a ballare, non sono ancora riuscita, ma imparerò. Senti Marta, io avrei piacere a fare un piccolo finale inventato adesso, originale. Dai, Mirko sentiamo. È a Rimini, io sono Cesenatico, tu sei là, cantiamo assieme un ritornello di due minuti, due secondi, che fa così. Sentiamo, dai, Mirko, sentiamo. Sei pronto? Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina. Che bello! Che meraviglia, che Marta, meraviglia! Marta, scusami, l'ultimissima cosa la devo dire. Dimmi. Perché è una cosa veramente, quantomeno strana, ma molto divertente. Per chiudere questa notte di Liscio la Grande, sia io che Raul, con le nostre chitarre, siamo stati invitati a Rock in Mille, quindi ci sarà questo evento con ma mille non ci posso musicisti. Credere anche voi a Rock in Mille con esatto. I mille musicisti domani sera saremo lì anche noi in prima fila a suonare credo un pezzo degli ACDC o dei Rolling Stones stiamo decidendo. È un sogno. Siete fantastici. Grazie a Raul Casadei, grazie a Mirko Casadei, a presto. Ciao. Grazie e poi sono molto contenta di tutti quelli che potranno essere a Rimini stasera a sentirli. Chissà, magari qualcuno è in viaggio in questo momento, quindi sentiamo come sta andando su strade e autostrade e ci ritroviamo tra poco. Il sabato del villaggio. Che bello anche solo immaginarsi di essere in Romagna questa sera, ballare liscio con Raul e con Mirko Casadei. Sono delle belle, sane, sorridenti tradizioni che fanno subito estate, fanno subito, non so, brave persone semplici. Mi piace veramente tanto, anche se non so ballare liscio, ma imparerò. Adesso però continuiamo a fare la nostra valigia, ci stiamo preparando per le vacanze, dobbiamo sapere che libri metterci dentro. Subito estate, questa musica un po' degli anni 60. Calendar Girl, beh, lo sappiamo, è il libro del momento, ma chissà se è tra i consigli dei libri da portarsi in vacanza, consigli della nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra! Devo fare la voce da Alessandra Tedesco o quella di Marta Cagnola? Perché dici? Ci invertiamo in ruolo. Ah sì, perché te lo devo consigliare o sconsigliare io, Calendar Girl. Allora, diciamo prima di che cosa si tratta, perché Calendar Girl è sicuramente uno dei libri dell'estate dedicato a, come diciamo, categoria per donne single fra i 25 e i 45 anni da leggere sotto l'ombrellone, così vero, ce la siamo inventata, vero, spariamo. Allora, Calendar Girl sono quattro volumi, quattro romanzi uno di seguito all'altro. Questo è il secondo volume che è appena uscito e riguarda i mesi di aprile, maggio, giugno. Quello che era già uscito descriveva gennaio, febbraio e marzo. La protagonista è una ragazza che deve mettere da parte, insomma, dei soldi perché deve pagare un debito. Diventa escort, ma chiariamo che cosa vuol dire escort in questo caso. Cioè lei interpreta dei ruoli diversi accanto a uomini diversi, per esempio fa finta di essere fidanzata, la fidanzata di un gay che non vuole fare coming out, fa la modella di un pittore e così via. Il sesso non è obbligatorio in questo rapporto, però se accade lei viene pagata di più, mettiamola così. È stato definito un po' come una sorta di 50 sfumature di grigio, ma passo la parola a Marta Cagnola, no, che l'ha letto. Perché io l'ho letto. Allora, io quando c'è il libro del momento lo devo sempre leggere, perché devo sapere di cosa si parla. Allora, la mia recensione di Calendar Girl è... Allora, è più divertente di 50 sfumature di grigio perché almeno... ci voleva molto. Esatto, perché almeno ogni mese si cambia uomo e hai la curiosità di uomo di e città, di vedere in che situazione si trova. È assolutamente... Allora, disimpegno. Non venitemi a scrivere, ah no, perché è un libro troppo leggero. Sì, sappiamo di cosa stiamo parlando. Ombrellone. Pubblicato da Mondadori, ci siamo dimenticati di dire. È più, appunto, più divertente di 50 sfumature di grigio, però io confesso che in tutti i libri io le scene di sesso le salto, perché mi annoiano profondamente. È difficile scrivere di sesso, Marta. Se tu chiedi a qualsiasi scrittore qual è la parte più difficile di un libro che è scritto, di un romanzo, ti dice sempre, se c'è, la scena di sesso. Ma sì, ma poi è volta di qui e gira di là, dai, ma che noia, ma non, niente. Allora, ho saltato a pie pari proprio tutte le pagine che parlavano, quindi mi sono letta forse metà libro, e lei è un po' piagnona. Cioè, allora, stai guadagnando un sacco di soldi, questi uomini sono tutti pazzeschi, sono tutti, praticamente lei si innamora sempre perché sono dei figli pazzeschi e si lamenta. Vabbè, non lo so, però alla fine è più divertente. Io conosco il finale, ma non lo posso dire. No, non dirmelo, perché poi alla fine, siccome c'è la curiosità di capire, io almeno il secondo vado avanti a leggerlo. Poi il terzo uscirà a fine agosto e il quarto verso il 20 settembre. Così vedremo. Concludiamo con dicembre e vedremo il gran finale di Calendar Girl. Lettura da ombrellone passa anche in un weekend. Una robina. Sì, se come me saltate le scene di sesso, proprio lo leggete in due ore. Allora, per donne single tra i 25 e i 45 da ombrellone sono d'accordo, però io ho letto questo, gli altri consigli li lascio a Alessandra Tedesco. Allora, categoria per uomini e donne appassionati di giallo d'autore. Quando si parla di giallo d'autore, a me viene subito in mente Simenon, il grandissimo sì. Georges Simenon. Stavolta vi propongo un libro che è stato da poco ripubblicato da Adelphi, era stato pubblicato nel 1934, pensa, si intitola Il passeggero di Polarlis. C'è questo Polarlis, che è una nave che fa spola fra Amburgo e Norvegia, trasporta di tutto, merci, insomma, frutta, carne salata, poi riporta in Germania merluzzi, olio di foca, pelli d'orso. Insomma, il capitano Petersen sente, fiuta fin dall'inizio che su quel viaggio c'è il malocchio. È sospettoso di chi? Allora, c'è un 19enne olandese che la compagnia gli ha mandato come terzo ufficiale, un vagabondo che è stato raccattato all'ultimo minuto al posto di un marinaio che si era ammalato. E lui è preoccupato del fatto che uno dei cinque passeggeri sia scomparso nel nulla dopo essersi registrato, e c'è anche una donna insolita. A bordo si è rifugiato un uomo che ha ucciso una giovane parigina. Avete capito qualcosa? Vabbè, dovete leggerlo per capire, perché soprattutto per capire chi è l'assassino. Esattamente, per capire chi è l'assassino fra questi pochi personaggi che si trovano su questa nave, che è soprattutto un mercantile. Beh, appassionati di giallo, a posto, in valigia Il passeggero del Polarlis di Georges Simenon. Comprato. Via. Altro consiglio. Allora, questa è una categoria particolare per uomini e donne che vogliono capire la Brexit, ma attraverso un thriller. Quindi niente appassionati di thriller, appassionati di politica estera, li mettiamo insieme, mi piace. Eh sì, perché guarda, Radio 24 sta facendo tantissima informazione su Brexit, però c'è anche un modo diverso per capire come si è arrivato a Brexit, come la Gran Bretagna è arrivata alla Brexit. Il romanzo, il thriller, si intitola Il principio del male, l'ha scritto Stefano Tura, pubblicato da PM. Stefano Tura è un giornalista della RAI, giornalista di Londra, sì, esattamente. Io in genere sono scettica sui libri scritti da giornalisti, ma devo dire che in questo caso è veramente valido. In una cittadina inglese viene massacrata una coppia di italiani che si erano trasferiti in Gran Bretagna per trovare lavoro. Un anno dopo iniziano una serie di omicidi. Il paese è in campagna elettorale e questi episodi danno di fatto una mano ad una fazione politica di ultradestra che combatte appunto contro gli immigrati. Ci sarà un detective a svelare il mistero, ma è soprattutto lo sfondo sociale e politico che descrive Tura in questo Il principio del male, che inconsapevolmente fa capire quello che avverrà dopo, cioè la Brexit, la paura degli immigrati, del diverso, di quelli che arrivano da fuori della Gran Bretagna, insomma è quell'animo che ha portato a Brexit. Sai che io non sono appassionata di thriller, però qua quasi quasi un elemento di interesse io in più ce lo trovo. Villa. Allora, consigli per bambini, noi sempre al Sabato del Villaggio, il consiglio per bambini / ragazzi lo diamo anche questa volta, sì. Sì, bambini assolutamente. C'è bambini, uno dei non bambini in valigia. Cose da portare. Io sono, sono un po' drastica, ma non fino a questo punto. Cose da mettere nella valigia dei bambini. Sì. Allora, okay. Uno dei fenomeni del momento è Samantha Cristoforetti, sì, proprio lei, l'astronauta, perché ha scritto questo libro molto divertente, Nello spazio con Samantha, scritto da, appunto, dalla stessa Cristoforetti e da Stefano Sandrelli, pubblicato da Feltrinelli Kids. È stato consigliato tra l'altro anche molto nelle scuole, insomma i bambini e i ragazzini sembrano veramente amarlo, anche perché la Cristoforetti, lo diciamo, è diventata un po' un'icona, un simbolo. Certo. Allora, in questo libro lei racconta la sua esperienza straordinaria, cioè i 200 giorni passati nello spazio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Spiega naturalmente come è diventata astronauta, come si è preparata la missione, ma anche la vita quotidiana nello spazio. Questo è interessante anche per gli adulti. Sono delle curiosità che ho anch'io. Come si mangia, come ci si lava senza gravità, insomma, diciamo dagli 8 anni in su, nello spazio con Samantha, di Samantha Cristoforetti e Stefano Sandrelli. E poi tutti i bimbi vorranno fare gli astronauti. Che bello, non vogliono più fare i tronisti, per fortuna siamo tornati a voglio fare l'astronauta. Poi vogliono fare l'astronauta. Ancora consigli, Alessandra? Ti ho scelto una categoria, le coppie, perché ci sono dei romanzi che secondo me, letti, non dico in coppia contemporaneamente, ma letti no, prima da lui, bisogna avere lo stesso ritmo e non va bene. Non prima ti lo legge lui, la pagina al momento giusto. Allora, prima lo legge lui e poi lo legge lei o viceversa, però sono due romanzi che fanno riflettere molto sulla coppia, che potrebbe anche scoppiare in certo una senso. Una prova del 9. Il primo è un thriller psicologico, La moglie perfetta, ed abbiamo detto tutto, di Roberto Costantini, pubblicato da Marsilio. Costantini è quello che era diventato famoso insomma con la trilogia del male, e qui torna il commissario Balistreri che diciamo ha a che fare con uno strano caso, è ambientato prima nel 2001, poi si parla anche del 2011 a Roma. Ci sono due coppie, professore italo-americano Victor Bonocore e la moglie Nicole. Dall'altra parte c'è il pubblico ministero Bianca Benigni e il marito Nanni. Che cosa, come si incrociano queste coppie? Beh, è facile dirlo. Victor Bonocore viene ucciso e il commissario Balistreri indaga accompagnato dal PM Bianca Benigni. E sospettato del delitto è proprio la moglie di Victor, l'ho pensato subito. E poi, se vogliamo far scoppiare proprio le coppie, io direi facciamo, leggetelo insieme, è un romanzo bellissimo, lo consiglio sempre, La storia di un matrimonio dell'americano Andrew Sean Greer, pubblicato da Adelphi qualche anno fa, quindi credo che ci sia anche in edizione economica. Ti ricordi quel film dove guardavano i cellulari degli altri? I perfetti sconosciuti, ecco, vi fa scoppiare come quello, perché ti dico solo che la frase centrale del romanzo è questa: crediamo tutti di conoscere le persone che amiamo. Il romanzo è ambientato negli anni 50 negli Stati Uniti e c'è un uomo che arriva dal passato e soprattutto una coppia, un lui e una lei, che si rendono conto che in realtà non si conoscono per niente. Beh, dai, allora facciamo così, che lo leggono le coppie e poi quelle più innamorate si innamorano ancora di più, perché invece loro si conoscono bene. Ecco, madonna mia, come l'hai messa bene, Marta Cagnola, veramente. Basta metterla, basta volgere al positivo. Potrebbe essere un bel test, leggere appunto, se una coppia dovesse leggere questo romanzo, secondo me avrebbe molti, molti spunti di, non dico discussione, ma di confronto. Mi piace molto l'idea. Grazie Alessandra, ci ritroviamo sabato per l'ultima puntata del Sabato del Villaggio, ancora con i libri da mettere in valigia. Ma sì, facciamo ancora consigli per l'estate, Marta. Riempiamo le valigie. Alessandra, ultimo consiglio, Il cacciatore di libri. La mattina del sabato alle 6:30, la sera alle 22, e da agosto ci sarà una nuova edizione speciale estiva. Il sabato e la domenica alle 10 del mattino vi cuccate ancora libri, libri, libri. Grazie Alessandra. Baci. Il sabato del villaggio. Ormai è un'abitudine a quest'ora, ormai anche gli ascoltatori lo sanno che a quest'ora è il momento di andare a curiosare un po' in giro per l'Italia per tutti gli eventi di musica, di spettacoli, festival, e anche questo sabato c'è con noi Manuel Giancale. Ciao Manuel. Buon pomeriggio, come stai? Io bene, sai, quest'ora al sabato io sono contenta di essere in onda con gli ascoltatori, sempre un sacco di cose da raccontare. Vedo che anche questo sabato ti sei preparato moltissimo, che hai un sacco di fogli in mano. Ma sì, ma perché sono tantissimi gli eventi, bisogna sempre scegliere. Ma poi non ci si possono imparare a memoria, perché se sbagli le date, gravissimo. Oh, carta canta qua, eh. Carta canta, ce l'hai, infatti sentiamo la carta alla radio. Dove ci porti subito? Allora, subito andiamo per un debutto al Musica nella Terra dei Giganti. Fino al 20 agosto possiamo andare in due località: il Parco della Musica di Riola Sardo oppure all'Anfiteatro di Tarros, dove ci sono 1000 posti a sedere tra le antiche rovine sul mare. Siamo in Sardegna. Deve essere un bel posto. L'ho scelto proprio per quello, perché ci sono dei posti veramente bellissimi come località vere e proprie, cioè le rocce, la spiaggia, quelle cose lì che sì, d'estate, sai, si sta lì, e poi se si sente musica, buona musica. Che cosa c'è ad esempio? Il 20 agosto ci sarà De André che canta De André. Che qui, qua, Cristiano Andrea, lo adoro, se lo può permettere. Bravo Cristiano. E poi il 9 agosto invece c'è il quintetto di Simona Molinari tra jazz, swing, elettronica e eccetera. Musica molto molto ricercata, bello, molto, sì, mi piace tutte molto. Tutte le informazioni si possono trovare su www.boxofficesardegna.it. è molto dettagliato. Tutti coloro che saranno in Sardegna in vacanza fino al 20 agosto, che possono anche andare a sentire un po' di musica. Mentre invece lo scorso weekend c'è stato Ezio Bosso. Il mondo ha bisogno della musica, ha bisogno di musica. Ma c'è, perché la musica siamo noi. La musica è... La musica è una fortuna che condividiamo. Abbiamo scoperto in tanti Ezio Bosso in questi ultimi mesi, soprattutto sì, con questa grandissima performance a Sanremo che ha divertito, commosso, e poi ci ha fatto scoprire un pianista compositore davvero bravo. Ce lo siamo persi lo scorso fine settimana? Ebbene sì, io non c'ero. Ci sono altre date, vero? Ce lo siamo persi. Perché è veramente una cosa eccezionale andarlo ad ascoltare. E oggi sarà in Piazza Garibaldi a Cervia, a Ravenna. Questo per l'ultimo minuto, ma sarà il 26 luglio al Forte di Bart. Quindi ad Aosta, è vicino alla mia città, vicino a Torino, quindi io ci vado. E andatelo a vedere anche solo il Forte, perché è eccezionale anche bellissimo, quello. Bellissimo, sì sì. E poi il 30 luglio invece sarà al Mantova Arte e Musica, in Piazza Sordello, proprio lì a Mantova. E visto che ci siamo... L'abbiamo citato? Eh sì, perché Mantova oggi prende, in occasione di questo Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016, adesso se la tirano che... No. Vabbè, però è bella. Però bella, è bellissima, bella, assolutamente. E ha in pratica realizzato una bellissima manifestazione piena di concerti, di appuntamenti. Ad esempio ci sarà Elio e le Storie Tese, ci saranno gli Elio e le Storie Tese il 28 luglio in Piazza Sordello, poi come ho detto il 30 ci sarà Ezio Bosso, gli Stadio il 1 settembre in Piazza Castello, quindi Fantastici, adorabili, li adoro. Bello, un bel programma anche per Mantova Arte e Musica. Gli Stadio chiuderanno il 1 settembre, chiuderanno la manifestazione. Degnamente. Sì, assolutamente sì. Altri appuntamenti? Altri appuntamenti, andiamo nelle Dolomiti con i suoni delle Dolomiti insieme a Chiara Bassetti. Il palcoscenico dei nostri concerti sono le Dolomiti del Trentino. Il Trentino è da 22 anni che porta musicisti e spettatori lungo i sentieri di queste montagne che sono tra le più belle montagne del mondo, e lo fa proprio per raggiungere luoghi molto belli, paesaggi bellissimi. È un festival dedicato al paesaggio, il paesaggio ambientale, il paesaggio musicale ovviamente, e il paesaggio anche dell'anima, cioè il paesaggio che ognuno poi si disegna nel partecipare a questo evento. È quindi un'occasione unica per scoprire musicisti, ma per scoprire anche la montagna in tutte le sue sfaccettature. Sì, perché ci sarà musica classica, jazz, etnica, insomma, un po' di tutto, comunque sì, tutto all'insegna della natura più che altro. Assolutamente, noi i nostri 19 appuntamenti vogliono così toccare tanti generi musicali, tante quote, per dare la possibilità a tutti di trovare un'occasione per accostarsi alla natura in maniera originale. E gli artisti arrivano da tutto il mondo, appunto il jazz, la musica classica, la musica etnica, questo per creare un tappeto sonoro che dura praticamente tutta l'estate. In ogni appuntamento si può fare un'escursione con le guide alpine, leggo, guide alpine del Trentino, cioè nel senso si può fare un'escursione per partire da un posto, arrivare ad un altro, cioè arrivare ad ascoltare il concerto, giusto? Assolutamente sì, e gratuitamente tra l'altro, perché a noi piace... dare l'opportunità di scoprire anche il nostro territorio, e quindi le guide alpine sono le figure di riferimento per noi assolutamente indispensabili. Sono loro che conoscono il territorio e assieme ai loro colleghi accompagnatori di territorio riescono davvero a portare tutti i turisti che desiderano scoprire il luogo nel quale sono alla scoperta di un territorio, ma anche di tante tematiche che lungo un'escursione si possono toccare: i fiori, gli alberi, il cielo, le nuvole. E quindi passeggiare insieme alle guide alpine, che sono per noi il punto di riferimento fondamentale nell'organizzazione del nostro festival, è un'opportunità che ci piace dare ai nostri ospiti. Era Stefano Bollani, montagna, escursioni, sei appassionato? di montagna? Sì. Ma mi ci vedi? Non lo cioè, so. L'unica cosa che posso fare è rotolare giù dalla montagna. No, cosa... dai. Vuol dire che sarà un'occasione per via della musica, ti fai sì. convincere, vai a fare il giro con le Però guide mi chiedo, veramente, ma si sente meglio la musica lassù? Per sono forza... convinta di sì. Cioè sono l'aria pulita. Sì. Sono convinta di sì. I Io suoni non sono che non una ci montanara, sono. Ma secondo me... Poi bello, il jazz in Sardegna, nelle bellezze naturali. Sì. Poi questa settimana ci ho provato in un sacco di posti molto belli. La natura questa settimana. Questa settimana natura. ultimo minuto, so che hai un po' di date da regalarci per questo fine settimana, per questi giorni, per sì. chi già fosse magari nei luoghi di cui parli, quindi dice, accidenti, stasera, domani sera c'è questo. A Serravalle Scrivia, in provincia sì? di Alessandria, sì. gli Elio e le Storie Tese questa sera. Ecco, quindi li abbiamo nominati a Mantova. A Mantova, e questa sera invece saranno in provincia di Alessandria. Sempre da vedere. Mentre invece i Negra... Sì, loro sono eccezionali anche Fantastico. Come cioè, artisti oltre, non so come poterli definire. Poi ti racconto cosa hanno combinato quella volta che sono venuti ospiti al Sabato del Villaggio e magari vi potete anche scaricare il podcast perché hanno fatto veramente... le hanno fatte di tutti i colori. Adesso lo vado ad ascoltare subito allora. Sì, è stato straordinario. Altri concerti dell'ultimo momento. I Negramaro, Ariola Sardo ad Oristano, questa sera al Parco dei Suoni, e la località su Cucurumannu. Chiedo scusa dai. A tutti i sardi che sardi, meglio, non siamo, non parliamo non, la lingua. Non lo so. E internazionale invece Anastasia a Palermo. Anche questa lei è una sera. Nostra amica che ci è venuta a trovare, quante belle persone che abbiamo Ma conosciuto non potevi chiamarmi? Sabato in villaggio. Ti richiamo quando torna Anastasia. Anastasia proprio. Quando? Stasera a Palermo, ah, al fantastico. Teatro di Verdura. Fantastico. E poi invece domani sera, quindi avete un po' più di tempo, c'è Gianna Nannini all'Arena della Regina Cattolica in provincia di Rimini, gli Iron Maiden all'Ippodromo delle Capannelle a Roma. E poi Chiara Galiazzo, per chi fosse un pochettino più giovane, perché Chiara è molto sì. seguita dai giovani. Sì, sì. Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Anche se secondo me gli Iron Maiden possono piacere molto anche ai sì, giovani. Sì. Ho scelto gli Iron Maiden per salutarti. No, ma per carità, anche gli altri sono tanto carini, però ti volevo salutare con un po' di carica con gli Iron Maiden. Allora, la prossima settimana ancora un sacco di eventi. Ti riaspettiamo, Manuel. Studia, preparati ancora dei calendari. Yes. E grazie per essere stato con noi. Al prossimo sabato. Grazie a te, un saluto a tutti. Ciao! È molto musicale e soprattutto molto varia, perché come potete sentire dagli AC/DC a Raul Casadei non ci siamo privati di nulla. Tra poco, dopo gli aggiornamenti sul traffico preziosissimi, parleremo ancora di musica con un'iniziativa davvero da non perdere. La scorsa settimana vi abbiamo raccontato della bellissima mostra dedicata a David Bowie al Mambo di Bologna, abbiamo parlato di un'ala del Museo della Pace di Napoli, del MAMT, dedicato a Pino Daniele. Ma in questi giorni si apre un'altra mostra da non perdere, ne parleremo tra poco nell'ultimo spicchio del Sabato del Villaggio. Ma noi staremo insieme ancora dalle 17 alle 18 per la terza ora, dopo il giornale radio delle 17 che sta realizzando, lo sapete, in redazione il nostro Enrico Pagliarini, perché avremo l'ora di RadioTube. Ho qualche istante per anticiparvi quali saranno i temi della terza puntata del Sabato del Villaggio, cioè l'ora di RadioTube insieme a Daniele Bellasio. Per tutta l'attualità della rete e dalla rete parleremo di Donald Trump. Parleremo molto di Donald Trump per capirne di più di questo fenomeno di cui tutti parlano ma del quale non siamo sicuri di aver capito ancora molto bene. Avremo ospite un giornalista che ha scritto una biografia davvero molto molto interessante. E poi parleremo ancora dei Pokémon, ma ne parleremo in maniera molto particolare perché ci sono tante persone che le usano come app di dating, cioè per cuccare. Lo scopriremo tra poco perché. E poi parleremo anche di calcio con tutti gli aggiornamenti che riguardano il Pipita. Parleremo di serie TV. Tutto questo in RadioTube dalle 17 alle 18. Ora un brevissimo aggiornamento sul traffico e poi parleremo di un grandissimo che è sempre nei nostri cuori. Il Sabato del Villaggio. Avevo il microfono chiuso e cantavo questo Attenti al Lupo. Era un po' difficile scegliere un brano, un paio di brani in Lucio Dalla per parlare di lui, perché lui è sempre con noi, perché lo amiamo sempre tantissimo. E io sono molto contenta di segnalare questa mostra che sarà fino al 2 ottobre al Museo del Vittoriano a Roma. Sono davvero contenta di poterne parlare e non vedo l'ora di poterla visitare, ma intanto chiedo tutte le anticipazioni al curatore, grandissimo critico musicale, di Repubblica. Buonasera Ernesto Assante, buonasera Ernesto. Buonasera a voi e grazie per il grandissimo, non Beh, lo merito io sono, ovviamente. Sono un po' emozionata ad avere al telefono Ernesto Assante, accidenti. Ernesto, cosa si vede in questa mostra Lucio Dalla Immagini e Suoni? E già il nome ci dice qualcosa. Ci vedono quasi 80 fotografie scelte tra il materiale realizzato da 6 grandi fotografi italiani: Fabio Rovino, Giovanni Canitano, Luciano Viti, Guido Arari, Carlo Massarini, che in un periodo, come dire, all'inizio della sua avventura di giornalista faceva il fotogiornalista e quindi aveva delle foto molto particolari di Dalla e molto belle che sono in mostra. Dalla con una squadra di basket, per essere precisi, quindi molto divertenti. Insomma, cerchiamo di dare un ritratto dei molti ritratti possibili di Lucio Dalla, di celebrare la sua arte, la sua musica e di celebrare anche l'arte dei fotografi, perché è una mostra, come dire, che celebra anche la migliore fotografia musicale italiana. 30 anni di vita e di successi, quindi si ripercorre anche un po' la sua vita, la sua carriera. Diciamo che si cerca di avere un ritratto il più possibile privato, nel senso che le foto dal vivo, quelle in concerto, sono poche. Il bello della mostra, almeno per quello che pensavo fosse il senso della mostra di questo tipo, era per dimostrare un dallo un po' più privato, backstage, mentre è al bar, mentre è dal barbiere, mentre è al mare, insomma. I fotografi hanno tutti e sei avuto dei momenti di vita con Dalla importanti e singolari, e questo credo sia il cuore della mostra, cioè quello di mostrare un Dalla un po' meno visto, un po' più personale, un po' più privato, che ci serve, credo, per capire ancora di più e ancora meglio la sua musica, che raccontava la nostra vita e non soltanto la sua. Anche perché lui era un uomo particolarmente divertente. Io ho visto alcune di queste immagini che raccontano davvero com'era lui. Guarda, era un uomo di una grandissima curiosità, credo che fosse il suo pregio migliore, interessato e appassionato di tutto, quindi non soltanto della musica, che era il centro obiettivamente della sua arte e della sua esistenza, musica che anche in questo caso ha frequentato in tutti i modi possibili, dal rock al jazz, all'elettronica, all'opera, alla classica, ma era appassionato di tutto, era un uomo estremamente divertente, estremamente curioso e estremamente intelligente, con il quale era interessante parlare, era interessante avere, come dire, confrontarsi anche quando, come dire, le opinioni divergevano, come può capitare con noi giornalisti frequentemente, ma insomma era... diciamo che era stimolante essere in sua compagnia in qualunque caso. Che rapporto hai avuto tu da critico con Dalla? Lui come prendeva quello che scrivevi? Guarda, credo abbia fatto con me, con molti altri, se c'era qualcosa che non piaceva di quello che noi scrivevamo, alzava il telefono e chiamava proprio deliberatamente. C'è stato un periodo in cui, in questo veramente, per un paio di mesi non mi ha nemmeno rivolto la parola una volta per una critica, come dire, che non aveva gradito, però penso sia giusto, cioè noi... anche tu o anch'io, se veniamo colpiti nel cuore della propria passione, quindi non era un mestiere per Dalla, era assolutamente la sua vita, quindi subire critiche immagino non fosse gradevole, proprio perché per lui non era lavoro, era arte, era vita, era respiro, era molto di più di quello che uno normalmente pensa sia il praticare l'arte dell'intrattenitore. Lui non era un intrattenitore, faceva tutto con estrema precisione e con estrema passione, per cui anche le critiche dei giornalisti le prendeva con difficoltà. Ricordo una volta che si presentò addirittura a casa di Gino Cassato, cioè bussando la porta e arrivando per discutere con lui di un pezzo che Gino aveva scritto che non gli era andato giù. Beh, posso immaginarmi la scena, veramente, veramente notevole. Molto amato ancora Lucio Dalla. Qualche giorno fa ne parlavo con un po' di amici, con un bravissimo cantautore, un amico che io amo particolarmente e del quale ho avuto la fortuna di ascoltare qualche giorno fa il prossimo album, che si chiama Diego Mancino. Bravissimo Diego, molto bravo. Molto, molto bravo. Lui mi ha detto una cosa che ho riscontrato in molte persone: Dalla è ancora molto amato, ma in tanti l'abbiamo capito dopo e l'abbiamo capito crescendo. Perché forse Dalla si capisce vivendo e crescendo un po' di più. Guarda, credo di sì, perché le sue canzoni hanno due pregi fondamentali: quello di essere estremamente popolari e quello di essere estremamente raffinate. Allora, se uno vuole prendere soltanto l'aspetto popolare e appunto godere della melodia, dell'armonia di queste canzoni, lo può fare senza indagare oltre. Se invece vuole avere la pazienza e il tempo di entrare nelle pieghe delle canzoni, scoprirà un mondo straordinariamente ricco. Io faccio sempre l'esempio di Enna, che è una delle sue canzoni magari meno note, che ha avuto meno successo, però è una delle canzoni più belle che siano mai state scritte, è una canzone che parla della guerra, della violenza, in una maniera estremamente poetica, una canzone tremendamente struggente, eppure allo stesso tempo una canzone molto politica. Allora, ci sono molti modi di ascoltare Dalla, credo che più andiamo avanti nel tempo, più scopriremo meraviglie all'interno delle sue canzoni. A te cosa è rimasto nel cuore di Lucio Dalla? Un po' immagino che si vedrà dalla mostra, visto che hai compiuto delle scelte. Credo di sì e spero di sì. Credo che lui abbia scritto delle canzoni senza le quali io non sarei quello che sono, ma questo non è vero soltanto per me, credo sia vero, ed è per questo che io trovo che sia fondamentale che la mostra sia al Vittoriano, sia vero per una buona parte di italiani. Dalla e le sue canzoni hanno contribuito a raccontare l'identità degli italiani negli ultimi 50 anni, l'hanno raccontata, l'hanno anche formata, perché parte del nostro immaginario collettivo è fatto anche delle canzoni di Lucio Dalla. Allora trovo che il monumento dell'identità nazionale ospiti una mostra su Lucio Dalla, che è parte integrante della nostra identità culturale e nazionale, trovo che sia una cosa molto bella e spero che piaccia anche a chi andrà a vedere la mostra. Ti faccio un'ultima domanda, Ernesto. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana in merito alle mostre di David Bowie e all'ala della MAMT di Napoli dedicata a Pino Daniele. Finalmente anche le mostre e i musei si sono resi conto dell'importanza della musica e della cultura popolare, e anche il pubblico si avvicina alle mostre e ai musei parallelamente e anche così, insomma, grazie alla cultura popolare. Mi sembra un fenomeno molto interessante. Credo che era ora, mettiamola così, cioè si è considerato fino adesso la musica, il rock, il pop, la canzone d'autore, sempre come dire molto più vicino all'intrattenimento che all'arte, molto più vicino all'intrattenimento che alla cultura. Sono solo canzonette, si diceva un tempo, ma in realtà non lo sono mai state. E quindi credo che il fatto che oggi finalmente si renda giustizia all'arte di artisti come Bowie, come Pino Daniele, come Dalla, penso sia il primo passo di qualcosa che deve portarci anche più lontano. Andrebbero studiati nelle scuole, sono parte integrante della nostra cultura e della nostra storia. Sono d'accordo al 100%, davvero grazie al critico di Repubblica veramente. Ernesto Assante per essere stato con noi, grazie Ernesto. Grazie mille. Grazie a te e ricordo fino al 2 ottobre al Museo del Vittoriano di Roma, Lucio Dalla, Immagini e Suoni. Adesso basta sangue, ma non vedi, non stiamo nemmeno più in piedi, un po' di pietà. Invece tu, invece fumi, con grande tranquillità, così sta a me che devo parlare. Fidarmi di te. Domani, domani, domani, chi lo sa che domani sarà? Oh, chi non lo so, quale Dio ci sarà? Io parlo e parlo solo per me. Va bene. E questa era Enna di Lucio Dalla, che ci ha citato poco fa Ernesto Assante. Io davvero sono molto curiosa, non vedo l'ora di andare a vedere questa mostra dedicata a Lucio Dalla, perché come tanti, come tutti, ho sempre Lucio Dalla nel cuore. Insomma, queste due puntate del Sabato del Villaggio abbiamo ricordato dei grandi, proprio perché in questi giorni si stanno aprendo mostre, esposizioni, è davvero una bella cosa. Allora, noi per il momento ci salutiamo, ma solo per poco, perché adesso dobbiamo dare la linea al giornale radio delle 17. C'è già Enrico Pagliarini che si muove per la redazione con il copione del giornale radio. Tutto questo per quanto riguarda il Sabato del Villaggio. Dopo il giornale radio ci ritroviamo ancora, perché ci sarà la terza ora del nostro sabato insieme di Radio 24. Sarà la terza ora quella con Daniele Bellasio con Radio Tube.